ce lo fai a quella grande bagassa, ma tu hai capito, stronzo, quello che c'ha il 243364, e quello sei tu, hai capito? Adesso domani vado su in questura, tu che hai, coglione, a me non me ne frega niente, tanto, domani faccio una bella firma su in questura, e un po' l'ho fatta.